Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Il miglior libro di marketing, il cinema, parola della Harvard University. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Questo è il tema del primo degli approfondimenti che vi riproponiamo per la rassegna estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Torniamo poi a parlare degli oggetti più rubati nei negozi e nei supermercati e per il focus sui trend di Slow Cities, quando in città la lentezza fa tendenza. La borsa della spesa. Secondo Noam Wasserman, professore della Harvard Business School, il grande schermo può essere un ottimo strumento per chi studia i diversi casi del marketing. Ecco i modelli da seguire e perché. Jerry Maguire. Ciao. Salve. Sto cercando mia moglie. Se deve succedere qui, allora deve succedere qui. Stasera, per il nostro progetto, per la nostra società, è stata una serata molto importante. Ma non era completa, perché non potevo condividerla con te. Viviamo in un mondo cinico e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive. Tu mi completi. E io dovevo proprio... Smettila. Sta zitto. Mi avevi già convinto al ciao. Uscire dal nido, abbandonare un lavoro sicuro per lanciare una nuova idea, come il procuratore sportivo interpretato da Tom Cruise, che dopo una crisi di coscienza si licenzia e riparte da zero con un solo cliente. L'attimo fuggente. Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Imparare a vedere il mondo degli affari attraverso una propria visione. È l'insegnamento del professor John Keating ai suoi studenti. Vedere il mondo da un'altra prospettiva, anche quella in piedi su una scrivania. Tucker, un uomo e il suo sogno. È probabile che non abbiate mai sentito parlare di Preston Thomas Tucker. Sognatore, inventore, visionario. Un uomo troppo avanti per il suo tempo. Io sono arrivato in ritardo di una generazione, perché nel sistema di adesso, il solitario, il sognatore, l'eccentrico, che se ne esce con un'idea bizzarra di cui tutti ridono, ma che poi si dimostra valida e rivoluzionaria, viene schiacciato dall'alto. Prima ancora di tirare fuori la testa dall'acqua, perché i burocrati preferiscono uccidere un'idea nuova piuttosto che vederla esplodere. Se Franklin fosse vivo oggi, finirebbe in galera per aver fatto volare un aquilone senza permesso. È vero! Un business meno ampio permette agli imprenditori di stare vicino alla propria creazione. Il film di Coppola racconta la storia di un geniale inventore sostituito nella stessa compagnia da lui fondata. Nell'elenco di Wasserman ci sono anche Baby Boom, in cui la parabola del personaggio interpretato da Diane Keaton inquadra le difficoltà di fare il salto di qualità con un'idea di business vincente, e Startup.com, storia di due amici di lunga data che decidono di buttarsi nella sfida di internet, dal quale gli studenti possono imparare il valore della partnership. Ma funzionano nel marketing approcci del genere? Lo abbiamo chiesto a Simonetta Pattuglia, docente di marketing e comunicazione delle imprese all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Sono bravissimi gli americani a dare delle efficaci etichette a dei concetti che non sono sempre così innovativi, diciamo. L'approccio è plausibile, assolutamente verificabile, non solo per i film di queste grandi major americane, ma anche per i nostri film, anche i blockbuster italiani, direi, possono essere letti con questa filigrana, diciamo, di marketing. Marketing e strumenti non convenzionali sono sempre più in uso sia per l'insegnamento che per la professione vera e propria.